Mi immergo da fanciullo pascoliano nel mondo arcadico, osservo e mi culo nel rotondo piano idiliaco e nella naturalezza della bellezza offerta dal creatore, non un dia convenienza per convenzione ma ineffabile, simbolo di perfezione plurisinestetica ed irripetibile, fantastica realtà palpabile e catartica, non aritmetica ma testata da sensi, non testata alterata da ingenti ingenzi, ma la percepisco, capisco che respira intensi profumi di natura viva e viva. I lumi solari mi irradiano la mattina come uno scriba, testo ogni virgola che si avvicina, ogni piccola e minuscola brinativa che si insinua nella mia pentola. Equilibrio in modi classici, distante da manie progressiste, ludibrio verso nuovi miti romantici, antistante da fobie manieristiche. Riecheggio l'Arcadia con toni classicistici, misti a stili mistici, la sua aura mi irradia, zero intifada ma pace fra fili lirici o lirismi soggettivistici, in comunione feroce sagace la pupilla che brilla nell'incanto del sante atroce ambiente quasi d'Orlando. Oh Virgilio, se fossi fra queste sponde udiresti le tue onde che risuonan come fionde, donde le donne son feconde e pudiche, io sono il ponte fra le tue uniche egloghe, ecco che il nuovo giorno è alla luce, le lucciole rinchiuse, il loco accoglie pace, sembra un gioco troppo volta al silenzio, le membra del mio corpo vanno a rilento, non sono in uno stadio soporifero effimero ed effettuo uno slancio da Pindaro nell'indaco. Equilibrio in modi classici, distante da manie progressiste, ludibrio verso nuovi miti romantici, antistante da fobie manieristiche. Avverto un erto di falso elmo purificatorio di teste di cuoio, l'obitorio e immagini maniati nidili fragili, ottimi consolatori, io mi rifugio in tragiche atmosfere, in un dormitorio di sfere maniere, monadi asceti nascesi, monaci in catarsi, sogna elevarsi e non restare in stasi, io dentro vasi, congetture, congiure, condanne abiure, rimangono tra ossa dure, anzi ostentano pure false cure ai problemi che c'erano ieri, oggi sono più seri, domani più salieri, sempre meno sinceri. E tu che c'eri ieri, oggi vedi più sentieri, ho appuri punti scuri di fumi industriali, e più armi e meno pari tra dispari più sleali. Equilibrio in modi classici, distante da manie progressiste, ludibrio verso nuovi miti romantici, antistante da fobie